Insito. Per definizione è una metodologia integrata, quindi composta da più metodologie, volta alla costruzione sociale e partecipativa di una conoscenza territoriale. Allora, Insito si va a collocare in un ambito territoriale limitato, quindi con dei confini. Questi confini in realtà sono labili, nel senso che essendo un progetto partecipativo, le persone che partecipano al progetto, cioè ovvero i cittadini, hanno un'idea di confine che è labile, può essere limitato a un semplice isolato o a più isolati. Un quartiere, quindi un territorio, parliamo un po' più di territorio, quindi una concezione più ampia, nel senso che Insito si può collocare in un ambito urbano, in un ambito suburbano, quindi esterno alla città, è composto da cittadini. In territorio ci sono dei cittadini, o chiamati utenti, user. Possono essere dei residenti, quindi ci abitano o vivono nel quartiere, dei lavoratori che quindi non ci vivono ma lo utilizzano per lavorare, si recano per andare a lavorare, degli studenti o dei turisti. I turisti implicano anche, non so, ad esempio, gente che va verso una birra nel territorio, non so, verso una val pub o per il wasir, per altri interessi. All'interno di questo quartiere, Insito necessita di un ente preposto, cioè di qualcuno che faccia funzionare il progetto, cioè Insito. E nella fattispecie potrebbe essere un'agenzia di sviluppo locale, un urban center, delle associazioni locali o delle istituzioni. Quindi la tecnologia può essere utilizzata da N enti preposti collocati all'interno del territorio. In questo caso, nella nostra sperimentazione, siamo noi, Izmo e Joseph, o chi partecipa, a essere l'ente preposto. E si compone di due ambiti, due aree. Una che è la parte tangibile, con la sua sede, dove, vabbè, poi magari lo parleremo meglio, c'è una buca delle lettere, una bacheca delle pagine e dove si svolgono gli incontri delle riunioni, e una parte web che, come vedete, è al limite tra una parte un po' fuori dall'ambito territoriale, perché comunque il web ha una dimensione non locale, e una parte locale in quanto tutte le informazioni possono essere georeferenziate quando sono collocate sul territorio. La parte web si dota di uno strumento wiki, attraverso il quale è possibile inserire dei contenuti, modificare gli stessi o commentarli. E tutti i contenuti possono essere taggati, vabbè, non sto lì a spiegare cos'è il tagging, e georeferenziati. Successivamente l'ente preposto inizia una fase di raccolta dati, che possono essere dati oggettivi, quindi una ricerca storica, indicatori sociali, dati economici, dati ambientali, infrastrutture, servizi, eccetera, comunque dati oggettivi che provengono da banche dati o dagli enti, ad altri enti sul territorio, oppure dall'animazione sul territorio che lo stesso ente preposto, in tal caso una delle due associazioni, attivano in modo successivo degli incontri con i cittadini, quindi in modo partecipato, animano il territorio attraverso dei focus group, attraverso delle mappe mentali, attraverso la deriva urbana, storia staffetta, eccetera, e metodologie che in modo successivo cercano di animare i cittadini e raccogliere dei dati. Dati che poi, sia quelli oggettivi che quelli provenienti dall'animazione sul territorio, andranno a confluire sullo strumento Wiki. In una fase successiva, comunque in contemporanea, c'è la parte di analisi dei dati. La parte di analisi dei dati si effettua attraverso lo strumento Wiki, in modo specifico attraverso il data mining, la ricerca di elementi ricorrenti attraverso l'analisi cartografica, in quanto tutte le informazioni sono georeferenziate, quindi sono dei pallini sulla mappa, oppure attraverso la semantica o l'analisi delle associazioni. L'ente preposto cosa fa? Per riassumere, anima il territorio e i cittadini, promuove il progetto Insito tra i cittadini, nel senso che comunque fa promozione, pubblicizza, raccoglie i dati, e questo è tra i due, cioè raccoglie i dati oggettivi e raccoglie attraverso l'animazione dei dati, ascolta nella propria sede i propri cittadini, in quanto i cittadini possono recarsi in sede per rilasciare commenti o materiali, modera chiaramente i contenuti, nel senso che se sono dei contenuti sconvenienti, insulti, comunque delle informazioni non inerenti al territorio, eccetera, può anche avvalersi la possibilità di cancellarli. Chiaramente, se è possibile, anche una formazione dei cittadini che sono interessati allo web, cioè la wiki, può crea dei momenti di formazione, analizza chiaramente i dati e poi infine sul tangibile chiaramente può iniziare una progettazione di azioni che possono essere delle politiche, dei progetti, bagni architettonici eccetera, oppure vende in qualche modo le informazioni derivanti dall'analisi. La parte tangibile e la parte web proprio per superare, quella di superare il digital divide e iniziare un'interazione diretta e indiretta, quindi tangibile con i cittadini, sia sul web che sul territorio.